Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Ormai lo sapete, quando nello sport entrano in gioco fattori di follia o di umanità o comunque di profondità interiore, noi ci entusiasmiamo. Quello è lo sport che vogliamo raccontare, e tra gli sport che ci piacciono c'è ovviamente l'atletica, che è una fucina, insomma, di talenti e di umanità e di storie particolari. Oggi parliamo di un atleta che ha avuto una carriera molto breve in realtà, però ha dato vita a una indimenticabile corsa in una calda notte milanese. È un atleta che arrivava da lontano eppure era italiano. Si chiama Marcello Fiasconaro. Eh sì, si parte intanto dalla Sicilia, da un paesino in provincia di Palermo che si chiama Castelnuovo. Da qui, alla fine della guerra, molti partono per cercare fortuna altrove. Uno di questi è un uomo che si chiama Gregorio Fiasconaro, è un ufficiale dell'aeronautica, ha la passione per la musica, il suo aereo però viene abbattuto dagli inglesi durante la guerra, e questo Gregorio Fiasconaro viene trasferito in un campo di prigionia in Sudafrica. Vedete come i casi poi influenzino e pilotino migliaia, milioni, miliardi di vite. Lui va a vivere in Sudafrica, si innamora di una sudafricana, Mabel Brabant, e la passione di questo Gregorio per la musica diventa un lavoro. Lui è un insegnante di musica, uno stimato orchestrale, e il 19 luglio del 49 la coppia ha un figlio che si chiama Marcello Fiasconaro. Siamo negli anni 60 in Sudafrica, e il Sudafrica è un paese particolare perché la comunità bianca è piuttosto vessatoria nei confronti della comunità nera. Lo sport è un privilegio che solo i bianchi possono praticare, e lo sport nazionale è il rugby. Così anche Marcello, col figlio di quell'uomo che dalla Sicilia era arrivato fino laggiù, fino al Sudafrica, gioca a rugby. A 18 anni ero alto 1,85 m e pesavo 76 kg. Il mio corpo era tagliato per il rugby e per me l'atletica era solo una parte dell'allenamento. Però non correvo su pista, ma sui prati dei campi da golf. Poi però c'è un allenatore, si chiama Stewart Banner, e vede questo giovanotto che corre molto forte, insomma lo convince a dedicarsi alla corsa, e così Fiasconaro inizia a correre i 400 metri. I risultati sono ottimi, anche se lui corre in maniera istintiva, a volte non coordinatissima, però lui ha una potenza che esplode dalle gambe, la potenza del giocatore di rugby, e marcia, come lo chiamano gli amici, comincia a vincere corse dilettantistiche, e però possono essere, come dire, l'inizio della svolta, i primi piccoli colpi d'ala. E mentre il nostro Marcello Fiasconaro corre, fa le prime corse, un primo incontro col destino è determinato dal fatto che un certo Carmelo Rado, ex atleta italiano, è in Sudafrica per lavoro. Parla di questo ragazzo con Primo Nebbiolo, dirigente della federazione atletica. Parla di questo Marcello Fiasconaro. È uno che corre forte, però non ha esperienza internazionale. Siamo nel 71, lui ha già 21 anni compiuti, quindi è già grandicello per poter iniziare una carriera atletica. Quando mi proposero di andare in Italia a dedicarmi alla corsa, risposi di sì, ma fu una risposta avventata. Non avevo praticamente mai partecipato a una gara ufficiale e non mi ero mai allenato seriamente. Però Fiasconaro è contento di andare in Italia anche per un altro motivo, perché in quegli anni, proprio per il problema dell'apartheid, il Sudafrica è stato escluso da qualsiasi competizione internazionale, non solo le Olimpiadi, qualsiasi competizione. Fiasconaro ha il doppio passaporto, in fondo lui si sente forse più italiano che sudafricano, perché è cresciuto in quel classico ambiente in cui si frequentano principalmente le famiglie di emigrati, in cui impari l'inglese e il dialetto d'origine, insomma finisci per essere italiano anche se magari in Italia non ci sei mai stato. Così nel giugno del 71 Marcello Fiasconaro arriva a Torino, viene tesserato dal CUS e poi trasferito alla Pro Patria Milano, accompagnato dal suo allenatore che si chiama Stewart Banner. A lui si affianca però un altro grande allenatore italiano, quello che ha allenato anche Piero Mennea. L'allenatore si chiama Carlo Vittori. Fiascone era un tipo estroverso, è gioviale, è facile andare d'accordo con lui, e poi ha questo suo aspetto che affascinava tutti. Io ero un bambino, ma mi piaceva vedere questo tipo con i capelli lunghi, con i baffi, sembrava più un musicista rock che un atleta. La prima gara a cui partecipa la fa con la tuta da rugby, però siccome è azzurra nessuno se ne accorge, già comincia a correre i 400 metri poco sopra i 46 secondi, è un tempo di tutto rilievo. Insomma, l'Italia sembra finalmente aver trovato un atleta che potrebbe darle delle soddisfazioni per molti anni. Il falco e il gabbiano. Il primo appuntamento che conta sono i campionati italiani. Fiasconaro parte come un razzo, e i 400 metri sono una gara particolare perché devi mantenere un certo ritmo, forse è la gara in cui si chiama velocità prolungata, è la gara in cui devi in qualche modo calcolare meglio le tue energie. Molti sono partiti forti nella storia dell'atletica e hanno fatto dei crolli verticali nel rettilineo finale, e Fiasconaro fa così, parte da tutto, non è ancora uno stratega di se stesso, però questa gara lui la vince in 45-7, stabilendo il nuovo record italiano. Qualcuno ci prova tra gli sconfitti a dire che in fondo lui è sudafricano, si spaccia per italiano, eccetera, però con Fiasconaro è impossibile litigare, perché lui non fa polemiche, sorride, è una persona molto cordiale. Non so se ero debole io, ma vomitavo spesso durante gli allenamenti. Odiavo allenarmi. Forse non ero serio, ma facevo lavori di qualità. Ripetevo i 300 metri 4 volte, tenendomi sui 32 secondi di tempo. Altri ripetevano la distanza più volte, ma con un tempo maggiore. Sarà per questo che i 400isti non volevano allenarsi con me, non volevano vomitare. Dopo due settimane dal campionato italiano si va a Viareggio il 25 luglio del 71 ed è ancora record italiano, si migliora di 2 decimi, 45,5. La gente comincia a appassionarsi a questo atleta che arriva dal Sudafrica, nessuno contesta più le sue origini da oriundo, perché lui ha conquistato il cuore dei tifosi italiani. Is the Russian Brechikov, but off the bend is Jenkins leading quite clearly, and Jenkins is absolutely clear. The West German curl is coming, and Jenkins is fighting. Werner's coming as well, and also going well is Fiasconaro, but it's Jenkins Great Britain, and Jenkins wins. Fiasconaro second, and Werner third. An unbelievable run by the teenager. An unbelievable run è la volata con la quale ai campionati europei di Helsinki nel 71, sempre il 13 agosto, David Jenkins, un inglese molto forte che ebbe una grandissima carriera, vince i 400 metri, ma li ha vinti per un soffio, perché al secondo posto c'è proprio lui, c'è Marcello Fiasconaro, che con una progressione finale incredibile arriva quasi al photo finish con l'inglese, 45 per Jenkins, 45 e 49 per Fiasconaro, ed è ancora record italiano. Fiasconaro ha conquistato anche la ribalta internazionale, è uno dei migliori 400isti del momento. Il record di Fiasconaro, quel 45-49 col quale ha sfiorato la medaglia d'oro a Helsinki, resiste 10 anni, verrà battuto da Mauro Zuliani. In Italia, peraltro, prima di Fiasconaro c'erano stati veramente pochi atleti capaci di correre i 400 metri a livelli da vertice, quindi insomma la federazione italiana si dedica a Fiasconaro e ripone in lui molte aspettative. Ma nel frattempo il suo allenatore Carlo Vittori ritiene che Marcello Fiasconaro, Marci come lo chiamano tutti, sia pronto per una nuova sfida, e il suo talento nei 400 è riconosciuto. Nel 72 stabilisce addirittura il record mondiale indoor con 46,1, però l'idea di Vittori è che un fisico del genere possa anche affrontare gli 800 metri, la distanza doppia, e da qui si passa nel mezzo fondo. Qui oltre ovviamente alla fatica c'è anche qualcos'altro, bisogna, mentre i 400 metri ognuno li corre nella sua corsia, e gli 800 campionato devi combattere con gli altri, devi essere anche un tattico, anche un calcolatore, March però lui corre è distinto perché ha la mentalità del rugbista, testa bassa e partire, quindi la sua esuberanza potrebbe anche costargli cara. E intanto ci sono i campionati europei di Oslo 73. L'ineffabile starter norvegese squalifica per due false partenze fantasma Marcello Fiasconaro e ci preclude la possibilità di entrare in finale. Un'eliminazione così grottesca non può essere digerita di buon grado. Le reazioni all'ingiustizia, comunque, sono forse fin troppo vivaci. Poco ci consola il fatto di essere terminati a Oslo davanti a Ungheria, Norvegia e Belgio. Eh sì, c'è un giallo, la partenza degli 800 metri, Fiasconaro è in piedi, non è ai blocchi, i giudici dicono ai vostri posti e poi il via è preceduto da un pronti, e Fiasconaro si confonde, si muove per due volte in anticipo e quindi viene squalificato per falsa partenza. La federazione protesta ma non c'è niente da fare, però da quel giorno la procedura di partenza nelle gare ufficiali cambia per evitare quei fraintendimenti. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando una particolarissima storia che parte dalla Sicilia, va in Sudafrica e torna in Italia. È la storia di Marcello Fiasconaro, figlio di migranti italiani, sudafricano che poi torna in Italia e partendo dal rugby in realtà diventa uno dei più grandi mezzofondisti che l'Italia abbia mai avuto. Prima quattrocentista e poi mezzofondista. La carriera di Fiasconaro è già decollata, un paio di gare, lui diventa primatista italiano della specialità e arriva secondo dietro a Jenkins ai campionati europei di Helsinki nel 71. È la prima volta che nei 400 metri un italiano sale sul podio. Ma nel frattempo Vittori ha convinto Fiasconaro che il suo fisico può reggere lo sforzo degli 800 metri e lui è già in questa specialità diventato il migliore d'Italia. Qui però, lo abbiamo detto, insomma, non conta solo la forza fisica, qui bisogna anche guardare l'avversario, studiare delle tattiche e tutto si complica perché negli 800 metri non è che ognuno corre sulla sua corsia, devi andare in mezzo alla bagarre. 27 giugno 73, Arena di Milano, si svolge una manifestazione, ne capitavano tante in quegli anni, c'era una sfida tipo Italia contro Germania, Inghilterra contro Francia e qui è Italia-Cecoslovacchia, due atleti per nazione, quattro che corrono, punteggi e alla fine una delle due vince, una delle due nazioni. Negli 800 metri corre Joseph Plachy, è il campione veramente del momento, è reduce da una medaglia d'oro agli europei e quelli e in cui Fiasconaro era stato squalificato. Siamo in una calda serata estiva, Marcello Fiasconaro, che ha già corso i 400, viene chiamato a correre anche gli 800 e in quel momento lui è ancora uno di rincalzo, ha fatto dei tempi non eccellenti, siamo due secondi superiori al record del mondo e poi bisogna anche ragionare, insomma, per sperare una vittoria bisogna preparare un po' una gara a tavolino. Non stavo granché bene, ero stanco, avevo già corso i 400 metri la sera prima, ma c'era bisogno di punti per battere i cecoslovacchi e dunque non mi tirai indietro. Con Carlo Vittori e Stuart Banner, i miei allenatori, decidemmo a tavolino la tattica. L'unica maniera per battere Plachy, atleta dal forte sprint finale, era cercare di scappare via, creare da subito un gap incolmabile, ammazzare la gara al primo giro. E così ho fatto. Sono partito forte, fortissimo, fin dall'inizio. Parte la gara, Fiasconaro deve stroncare Plachy perché Plachy è forte in volata, l'abbiamo capito, e quindi lui parte con un ritmo altissimo, 25 secondi i primi 200 metri, 26 e 5 nei secondi 200 metri, insomma praticamente ha esagerato, non è possibile mantenere quel ritmo. Vittoria a bordo campo è preoccupato anche perché Plachy nel frattempo riesce a seguire Fiasconaro, Vittori è anche l'allenatore di Mennea e si rende conto che Fiasconaro sta facendo dei tempi assurdi per una gara da 800 metri, insomma è probabilissimo che lui crolli nella seconda parte della gara. E in effetti c'è un crollo, ma non è quello di Marcello Fiasconaro, è quello del cecoslovacco che nell'ultima parte di gara crolla di schianto, si allontana sempre di più e marcia e continua a cavalcare verso la vittoria. Quando arriva c'è un boato, nessuno se l'aspettava. Si dà un'occhiata al cronometro e ci si accorge che Fiasconaro ha corso gli 800 metri in 1:43,7, 6 centesimi meglio del precedente record mondiale, un record che durerà 3 anni fino alle Olimpiadi di Montreal, dove entrerà in scena un altro grandissimo campione, il cubano Alberto Juan Toreña. E a questo punto della sua carriera folgorante, perché ha iniziato tardi, Fiasconaro ha 24 anni, è primatista del mondo, insomma è veramente un uomo di vertice. Il colpo d'ala della magica notte di Milano sembra l'inizio di una serie di vittorie, si parla già di Olimpiadi, però purtroppo non sempre i colpi d'ala ti fanno rimanere in alto. A Fiasconaro accade che le lunghe corse di allenamento, forse quelle addirittura fatte in Sudafrica, correndo sui campi da golf molto morbidi, hanno dato sì potenza alle gambe, ma gli hanno provocato della fragilità delle caviglie. Lui aveva già saltato l'appuntamento a Monaco del 72 perché era infortunato. Nei 2 anni successivi lui gareggia ancora in Italia e in Sudafrica, ma ormai il tempo stabilito all'Arena di Milano è irripetibile e qualche cosa si rompe non solo nelle caviglie ma soprattutto nella mente, nella determinazione di Marcello Fiasconaro, che a un certo punto decide di tornare alla sua vecchia passione, il rugby. Concordia, amatori, 35-6. A proposito della Concordia, potremmo dire che Fiasconaro ha fatto suo il vecchio detto venni, vidi, vinci. Fiasconaro infatti è arrivato ieri pomeriggio alle 14 dopo ben 26 ore di volo da Città del Capo, è arrivato a Milano alle 14 e alle 16:21 aveva già realizzato la sua prima meta di questo suo nuovo rilancio nel rugby spettacolo. Eccovi un servizio di Roberto Della Valle. Marcello, riuscirà a giocare tutta la partita? Spero di sì, io volevo giocare, oggi sono un po' stanco perché ho partito ieri alle mezzogiorno, però io provo di giocare tutte le partite. Beh, uno che si fa 26 ore di aereo, arriva e 2 ore dopo gioca a rugby, ti fa capire insomma quanto fosse diverso lo sport in quegli anni rispetto a oggi. E Fiasconaro per 2 stagioni è un giocatore di rugby della Concordia Milano, però nel frattempo vive un po' in Italia e un po' in Sudafrica, poi il richiamo del Sudafrica è troppo forte, nel 77 lascia l'Italia e diventa in Sudafrica rappresentante dell'Adidas, continua a lavorare nell'ambiente sportivo ma non è più un atleta di vertice. Nel 2013 si celebra il 40° anniversario della notte magica, quella dell'Arena di Milano, e Fiasconaro è tornato su quella pista che lo ha incoronato sul tetto del mondo. Tutto il giorno era mal di testa perché era nervoso del plaqui, perché hanno detto è il grande kick finale, però abbiamo superato e ogni volta che mi torno qua è un grande feeling del orgoglio, no? Si può dire orgoglio, giusto? Orgoglio. Ce l'hai il filmato, te lo riguardi ogni tanto o non l'hai mai più voluto vedere? No, infatti qualcuno, Carlo Grip, ha mandato sul Facebook. È strano quello che io non ho mai visto la gara completa, no? Ho visto la partenza e poi l'ultimo giro. Non lo so perché nessuno ha, perché la parte più bella di quella gara è la prima 400 metri. Quel record di Fiasconaro è tuttora il record italiano. Andrea Longo ci è andato vicinissimo, ma per qualche millesimo non è riuscito a batterlo. E insomma, il record è ancora nelle mani, o meglio dire nelle gambe, di un rugbista sudafricano che parla quell'italiano improbabile, fumatore, che regala momenti di grandissimo spettacolo all'atletica italiana, che in qualche modo si consacra nell'Olimpo, anche se solo per pochi anni. Un grande colpo d'ala che è rimasto nella storia del sport italiano e mondiale.